poco a meno elettricità, questo serve a tuo domani e non è banalità. Meno cibo da buttare, meno imballi e spazzatura, meno plastica nei mari che poi per millenni dura. Accese a caso, meno luce accese in casa, nel garage o nel tinello, dentro il bagno, sul fornello, fare la differenziata non è poi così bestiale, e il termostato sul 20 giuro che ti può bastare. Luce accese giorno e notte, contatore chi se botte, nel vialetto luce a giorno, così vedo quando torno che c'ho su 3009, e poi in coda chi si muove, la piscina è riscaldata anche se non l'ho mai usata. Insieme per le strade, nelle piazze, tutti allegramente al buio, tutti in gran felicità, ci scaldiamo con gli abbracci, con una candela accesa, per un'ora e poi per sempre, risparmiando per l'ambiente. Meno elettricità, questo serve al tuo domani e non è banalità. Meno cibo da buttare, meno imballi e spazzatura, meno plastica nei mari che poi per millenni dura.